Hashtag Autotrasporti. Buonasera, al microfono Andrea Ferro. Primo appuntamento con Autotrasporti, un programma che esplora un mondo in perenne movimento, racconta un settore che macina chilometri e chilometri lungo ogni latitudine, veicolando beni, ricchezza, lavoro. Dai centri di produzione e di smistamento fino ai supermercati, ai negozi, alle nostre case. Un flusso continuo ed interminabile che alimenta l'economia reale e a suo modo unisce il paese divaricandosi e incuneandosi lungo mille strade, grandi e piccole, verso le città, sui paesi, e vuole essere un momento di analisi, racconto, confronto e riflessione sui temi che caratterizzano questo mondo, proiettando il presente sul futuro. E iniziamo subito con la prima delle nostre rubriche che ci porta a conoscere questo mondo attraverso i numeri. 90% è la percentuale di merci che viaggia su strada in Italia. Siamo in linea con Massimo De Donato, direttore della rivista TIR, il mensile ufficiale del Ministero dei Trasporti. Buonasera De Donato, ciao. Buonasera a te e buonasera anche a tutti i tuoi radioascoltatori. Chi meglio di te può farci una fotografia del settore? Ma è un settore fondamentale per l'economia italiana, anche se molto spesso tutti noi ce ne dimentichiamo. Teniamo presente che è grazie all'autotrasporto che si muove circa il 90% delle merci in Italia, contrariamente a quello che pensa buona parte della gente, quasi tutto ciò che trova in casa, trova nel negozio sotto casa, è stato portato in una fase del suo percorso ovviamente da un mezzo su ruote. È un settore fatto in Italia da circa 100.000 imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, che è l'organismo chiamato a sovrintendere e a controllare un po' questo settore, ancor di più tra qualche mese, quando sarà pronto un database che consentirà a tutti i produttori italiani di poter verificare in tempo reale il proprio interlocutore, quindi la regolarità dell'impresa di autotrasporto a cui si rivolge. Dicevamo, è un settore fondamentale. Pensate che è un settore che rappresenta il 12% del prodotto interno lordo nazionale, se lo associamo alla logistica, quindi alla gestione complessiva delle merci, e quindi anche economicamente è un tassello fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro paese. Ecco, quali sono le priorità di questo settore? Ma in questo momento c'è un grosso dibattito legato soprattutto alla concorrenza abusiva, quindi sia che si tratti di una concorrenza abusiva interna che arriva dall'Italia e che può essere fatta da imprese che magari non rispettano le regole, non rispettano i tempi di guida e di riposo degli autisti, un tema drammatico che ogni tanto ritroviamo alla ribalta soprattutto della cronaca nazionale, imprese che non rispettano i pagamenti per i contributi previdenziali, e questa è la concorrenza abusiva italiana, ma ben più grave è il cosiddetto cabotaggio abusivo, e cioè la possibilità che viene offerta alle imprese estere di poter effettuare dei trasporti in Italia, che è una possibilità limitata. Non sto qui a spiegarvi tutti i complessi meccanismi, lo sintetizzo semplicemente in un numero. Diciamo che un'impresa estera può fare 3 viaggi in Italia per poi dover ritornare nel proprio paese e quindi uscire dai confini nazionali. Molto spesso questo non avviene a causa di controlli che non possono essere così capillari come dovrebbero, e quindi molto spesso ci troviamo delle imprese estere che fanno un cabotaggio irregolare e quindi una concorrenza sleale nei confronti delle imprese italiane. E ora quali sono le sfide per il futuro? Le sfide per il futuro sono legate ai rapporti con Bruxelles, quindi alla capacità di gestire anche una sorta di trasformazione a livello europeo insieme con Bruxelles, insieme con le istituzioni europee, insieme con gli altri paesi europei, una lotta al dumping sociale, quindi a questa tendenza che arriva soprattutto dai paesi dell'est di abbassare sempre di più i compensi degli autisti e quindi di abbassare sempre di più il livello di sicurezza sulle strade, una lotta alla irregolarità in tutti i sensi, alla illegalità diffusa di cui parlavo prima, e questa sfida, come anticipavo nella prima parte dell'intervista, sarà portata avanti in particolare dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, in quanto la legge di stabilità, l'ultima legge di stabilità, affida all'Albo il compito di elaborare un database, quindi un elenco di queste 100.000 aziende, suddiviso, anche qui semplifico molto, ovviamente la normativa è molto più complessa, ma diciamo suddiviso in una white list e in una black list. Massimo De Donato, grazie e a presto. Grazie a voi. Il 2014 è stato un anno positivo per il settore dei trasporti merci. A dirlo inequivocabilmente sono i dati diffusi da Confetra, che è la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica. In particolare, il secondo semestre ha consolidato l'andamento positivo registrato nel primo, sia in termini di traffico che di fatturato in quasi tutti i settori. Spicca il traffico aereo con un 6,7% in più in termini di peso. Significa quindi che si è tornati ormai ai valori registrati prima della crisi. I trasporti su strada sono cresciuti del 2,1%, quelli su ferrovia dell'1,4%. Abbiamo in linea Mario Sebastiani, professore di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Buonasera professore. Ci sono dati sul trasporto delle merci che indicano un settore in ripresa. Cosa significa questo per l'economia in generale? Ma ovviamente una ripresa economica sembrerebbe in avvio e certamente questo potrebbe determinare delle prospettive molto positive, compatibilmente con la forza di questa ripresa che ancora mi sembra all'inizio, quindi si dovrebbe consolidare. Può essere un indicatore preciso che riguarda l'economia in generale, la ripresa del traffico delle merci? Certamente, è chiaramente il traffico delle merci è uno dei primi indicatori insieme al consumo di energia relativa all'andamento dell'economia, certo, e quindi ovviamente anche con la ripresa dell'attività riprende anche il traffico nelle merci, ovviamente. Adesso mi sembra che le nostre esportazioni, soprattutto stiamo parlando di un inizio di crescita trainata dalle esportazioni, mi sembra, no? Sì. E quindi se vogliamo più a un trasporto di medio e lungo raggio più che a un trasporto di breve raggio. Per consolidare questa tendenza cosa bisogna fare? Ci vorrebbe ovviamente, al di là delle riforme che potranno avere effetti a lungo andare, sarebbe necessaria una ripresa degli investimenti pubblici e degli investimenti privati, ovviamente. È in discrezione di queste ore con il DEF, che è il documento di economia e finanza atteso entro il 10 aprile, si prospetta un nuovo capitolo della spending review che toccherà anche il settore dell'autotrasporto. Non si rischia di invertire, insomma, questa tendenza? Ma guarda, io credo di no perché, ripeto, abbiamo a che fare con una ripresa trainata dalle esportazioni, nelle quali certamente l'autotrasporto svolge un ruolo di fileraggio, però poi le merci viaggiano in gran parte per altre, su altri mezzi, soprattutto se parliamo degli Stati Uniti o di destinazioni altrettanto lontane. D'altra parte, sì, ho letto appunto che questa spending review dovrebbe in qualche modo ridurre forse le accise, gli sgravi sulle accise sul carburante, e su questo forse c'è da riflettere, perché da noi le accise sono mediamente più alte che in altri paesi europei e quindi probabilmente gli sgravi che già ci sono servono in qualche modo ad armonizzare il costo del carburante dei nostri autotrasportatori rispetto a quelli di altri paesi. Altro viceversa riguarda i contributi che vengono dati all'autotrasporto, mi pare che siano intorno ai 250-350 milioni all'anno, che anche questi possono andare bene in un'ottica strutturale, però, vale a dire, in realtà erano stati anni fa confermati come temporanea misura per favorire processi di razionalizzazione, aggregazione, concentrazione fra imprese, in realtà sono diventati contributi fissi che vengono dati indipendentemente dal raggiungimento di questi obiettivi e così non vanno proprio, fra l'altro sono aiuti di Stato, ritengo incompatibili rispetto alla normativa europea, quindi procedure di infrazione già ce ne sono, mi risulta, e prima o poi verranno al pettine questi nodi, no? Vale a dire, una cosa è dare dei contributi in funzione di un riassetto di settore e altro invece trasformarli di fatto in contributi a fondo perduto. Ad Autotrasporti ogni settimana raccontiamo la storia di una merce, di un bene, dal momento in cui viene prodotto a quello in cui è consegnato. E trattandosi della prima puntata, non potevamo non partire dal latte, alimento di base, energia fondamentale per la vita. Veicolare latte significa lavorare a ciclo continuo. Bruno Pennesi è il titolare di una ditta specializzata in questo genere di trasporti. La giornata inizia con la raccolta. La raccolta del latte, facciamo una precisazione, avviene 365 giorni all'anno. Quindi tutti i giorni, compreso Natale e Pasqua, il latte viene raccolto presso dai vari agricoltori. E niente, la cisterna arriva, viene caricata da un frigorifero, lì si fa un primo controllo, si controlla la temperatura, si controlla l'acidità e se la temperatura è sotto 6 gradi, l'acidità con delle provette già convenzionate, va bene, il trasportatore provvede a caricare questa cisternetta che è un latte di raccolta. Non c'è tempo da perdere dal momento in cui le mucche hanno fatto il loro dovere, perché i tempi di consegna sono serrati ed esistono termini e regole da rispettare. Normalmente sono 12 ore dall'ultima stalla e 24 per la trasformazione. Trasportare latte significa poter contare su mezzi con determinate caratteristiche in termini di refrigerazione e conservazione del prodotto. I mezzi devono essere sottoposti al regime di ATP, che è un documento rilasciato di conformità rilasciato dalla casa madre quando la cisterna viene prodotta. Poi chiaramente c'è la NIA, che è un documento rilasciato dalla AFR, che sarebbe la notifica inizio attività, e chiaramente devono seguire tutte le procedure previste dall'HACCP riguardo il manuale del controllo e chiaramente varie anomalie che si possono sempre riscontrare e tutto quanto. Termina qui la prima puntata di Autotrasporti. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di Radio 24 con il mondo dell'autotrasporto, mercoledì alle 13.45 e sabato alle 14. Buonasera a tutti. Hashtag Autotrasporti.